Esecutivo e legislatura. La responsabilità della guida del governo è affidata a un capo, Amir, Imam, Sultan. Il capo dello Stato e del governo deve possedere i requisiti necessari e indispensabili per assicurare alla comunità tutte le condizioni favorevoli di sviluppo e progresso materiale e spirituale, nonché le condizioni di sicurezza interna e di difesa da eventuali aggressioni provenienti dall'esterno. All'elezione del capo partecipano tutti i musulmani, uomini e donne, capaci di agire e quindi titolari dei diritti politici, sia attivi che passivi. I requisiti richiesti dalla legge per accedere alla carica di capo dello Stato e del governo sono tanti e tali che il possesso di essi è sicura garanzia di buon governo. Egli deve possedere contestualmente i seguenti requisiti al massimo grado: profonda conoscenza del Corano e della Sunna, rinomanza di timore di Allah, profonda dottrina giurisprudenziale, carisma, attitudine al comando, esemplarità nello stile di vita, intelligenza e lungimiranza politica, capacità di mediazione. Il popolo elegge assieme al capo dello Stato e del governo un organo collegiale, il Majlis Shura, il consiglio della consultazione che coadiuva il capo nell'esercizio della sua funzione. L'autorità del capo si fonda sulla fiducia del popolo e ogni cittadino ha il diritto di censura del suo governo e di opporre l'eccezione di incostituzionalità a qualsiasi provvedimento governativo. L'attività normativa dello Stato ha carattere esecutivo e si svolge nei limiti prescritti dalla Sharia, le cui norme sono inderogabili perché, essendo la loro fonte Allah e Dio, nessun provvedimento umano può modificarle o abrogarle. Se le disposizioni richiedono interpretazione, questa è competenza di un collegio di esperti della legge islamica e della sua giurisprudenza. Le norme da seguire in nuovi settori di attività sono stabilite nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico e dello spirito che lo pervade dal Consiglio della Consultazione. Nello Stato islamocratico il giudice dipende dalla legge. I giudici sono nominati dal governo, ma all'atto dell'insediamento sono svincolati da ogni dipendenza dal potere esecutivo e devono amministrare la legge divina imparzialmente. Governanti e governati sono uguali davanti alla legge.